vede che sto acquistando. Grazie mio fratello che mi parlò tanto di te, con la voglia matta che io venivo innanzi a te. Vieni qua, Dio mio, solo con te voglio star. Lo solo a te questo amore, vieni qua Dio mio, questo perdono l'avrò, al mondo griderò il tuo nome. Solo a te voglio ripiangere, perché sei mio salvatore. La lacrima nel cuore, tu sei morto per noi. Dio mio, sto a pregare per i miei peccati al mondo, questa mia ingenuità solo tu mi puoi aprire. Dio mio, confiderò intero che tu esisti. Vieni qua Dio mio, solo con te voglio star. Loderò solo a te questo amore, vieni qua Dio mio, questo perdono l'avrò, al mondo griderò il tuo nome. No, questo perdono.